Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altra settimana, altro appuntamento insieme all'Adico. Ancora un saluto da Francesco Galante e un saluto a Carlo Gallofolini, direttore dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi siamo in piena estate, appena trascorso insomma il Ferragosto e come sempre capita d'estate ci sono problemi con i voli. Ricordo un paio di settimane fa di aver letto sui giornali di un volo dove delle persone sono restate 24 ore a terra senza aver notizie del loro aereo e dopo alla fine sono partiti ma con quasi 24 ore di ritardo. In questo caso tu che vicenda ci racconti? Allora, innanzitutto Francesco, ricordo agli ascoltatori che è sempre attivo lo sportello Vacanza Informata, che è un servizio che l'Adico offre alle persone che per qualsiasi motivo si trovano in qualsiasi situazione poco chiara, che durante le vacanze potrebbe capitare sia in occasione dei voli ma anche di prenotazione e di permanenza durante le ferie. Ormai dobbiamo dire che l'estate è entrata nel vivo, i casi di vacanze rovinate o annullate come ogni anno iniziano a fioccare e l'ultima in ordine di tempo, proprio arrivata all'Adico in queste ore, riguarda di una coppia di mestrini che prenotando con Alpitù un viaggio tramite un'agenzia di viaggi a Mestre dovevano andare a fare un soggiorno di una settimana a Creta e scoprono 3 giorni prima di partire nell'atto di ritirare i documenti che dovevano partire alle 19:20 dall'aeroporto di Verona, il marito della coppia viene a sapere che il suo volo è stato anticipato di 12 ore e quindi alle 7 di mattina. Certamente una vicenda che ha reso impossibile per le persone che il giorno prima lavoravano e non potevano stare a casa a dover e meglio poter partire. Si sono trovati insomma che hanno dovuto rinunciare alla vacanza in qualche modo. Praticamente la coppia, trovandosi nella condizione di non poter partire, ha chiesto di poter essere dirottato presso un'altra località. Alpitù chiaramente purtroppo anche non ha accettato la proposta e addirittura la beffa è arrivata giorni dopo rispetto alla data prevista del soggiorno tramite un SMS che è la data quindi era stata sfaisata e in programma per un altro periodo. In quel momento là chiaramente i soci non ottenendo riscontro e neanche i soldi da parte dell'Alpitù indietro rispetto a quello che è un loro diritto, hanno pensato bene di rivolgersi all'Adico che ha diffidato Alpitù chiedendo il rimborso della spesa sostenuta pari a 2.800 euro per le 2 persone più 700 euro a testa a titolo di risarcimento danni. Quindi questa è la richiesta, adesso ci vorrà del tempo presumo prima di capire se andrà a buon fine e come andrà il risultato di questa vicenda. Sì, questa vicenda Francesco e questa occasione per l'Adico è un'occasione per ricordare sempre gli ascoltatori che è di poco tempo fa che è stata recepita una normativa europea che finalmente ha introdotto quello che non solamente è il danno patrimoniale che una persona nel caso che venga coinvolto in questi disagi ha diritto, ma anche quello che è tra virgolette il danno morale, perché è vero che una vacanza rispetto a un'altra proprio per il carattere dell'unicità che questa può avere ha diritto ad avere un risarcimento di danno morale diverso rispetto a un altro. Pensiamo per esempio a chi si sposa e al matrimoniale una volta in tutta la sua vita e doveva andare a un viaggio di nozze o una luna di miele, come per esempio pensiamo a chi ha lavorato 40 anni e con la liquidazione aveva deciso di fare i viaggi della sua vita. Quindi ci sono anche condizioni che per unicità possono essere diverse rispetto a chi magari ogni anno è abituato ad andare in giro o farsi delle vacanze 2 o 3 volte. Quindi in questo caso l'Adico ha quantificato in danni morali di circa 700 euro l'importo aggiuntivo rispetto ai danni patrimoniali ed è anche un'occasione appunto per ricordare ai consumatori di vigilare sempre quando si sottoscrivono questi contratti, leggi attentamente le clausole che possono impedire al tuo operatore di spostare gli orari, i giorni rispetto a quelli predefiniti, e a non esitare a rivolgersi all'Adico, perché abbiamo uno sportello che è sempre attivo anche durante tutta l'estate, proprio dedicato a tutte quelle persone che per qualsiasi motivo durante le vacanze o prima o dopo possono trovarsi in situazioni di disagio. Da tenere in considerazione anche questo, magari per le prossime vacanze, penso a quelle invernali, piuttosto che, insomma, perché poi si viaggia ormai praticamente durante tutto l'anno, quindi inconvenienti ce ne possono essere sempre. Rivolgetevi all'Adico, Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Adico che ritroveremo anche tra un paio di giorni per un nuovo collegamento. Grazie a Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco, è un'occasione sempre per salutare tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.